La parola a Agostino De Michelis, segretario Torino Area Metropolitana. Io volevo che ci fosse un presidente di Cuneo per poter fare 20 minuti, ma siccome l'abbiamo avanzati 7 mi basta. Bene, siamo a questo congresso regionale, abbiamo tutti quanti finito il nostro tour territoriale, quindi abbiamo ognuno a casa nostra fatto le nostre riflessioni, le nostre verifiche e i nostri programmi. Io credo che questo sia un pochino il compito che ha un congresso a tutti i livelli, a qualunque tipo di livello. E quindi il congresso anche questo regionale, che in qualche modo a livello piemontese ci chiude poi il cerchio, in qualche modo cerchiamo anche un po' di fare il sunto di quello che è stato. Gli interventi sono molto interessanti proprio per questo motivo, no? E le ascoltiamo con molto interesse. Si potrebbe, dalla relazione, dai vari spunti che abbiamo raccolto nelle varie istanze, parlare di tante cose, ecco perché chiedevo un po' più di 10 minuti, ma non è il caso, quindi mi soffermo e scelgo dei temi, degli argomenti che un pochino più tratto e che più mi interesso da questo punto di vista. Allora, intanto i servizi, anch'io spezzo la catena rispetto a queste cose qui, che sono uno strumento fondamentale del nostro lavoro di pensionati sul territorio. Guai a noi pensare che si risolvono da sé. Tutte le varie iniziative, le varie cose che stiamo facendo per cercare di capire meglio in che modo ci possono aiutare a far bene il nostro mestiere, credo che valga la pena riflettere. A settembre, così la Furlan ci ha detto al congresso dell'UST di Torino la settimana scorsa, ci sarà questa conferenza in cui si dovrà discutere e capire quale può essere lo sviluppo e il futuro dei servizi, e da questo punto di vista aspettiamo l'appuntamento. Invece su quello che voglio soffermarmi è la contrattazione sociale. Beh, intanto la contrattazione sociale, ognuno ha un po' il suo bacino di utenza, chiamiamola così. Noi stiamo parlando della provincia di Torino, cioè Torino AM, area metropolitana, contiamo 315 comuni, compresi Torino. Di questi 315 comuni, negli ultimi anni abbiamo raggiunto un centinaio, 126 per l'esattezza. Ovviamente non tutti gli anni, però abbiamo toccato questo gruppo di comuni, con le quali ovviamente abbiamo fatto dei ragionamenti interessanti. Intanto abbiamo piantato la bandierina, quindi ci siamo fatti conoscere, abbiamo cercato di dire quello che noi pensiamo e riteniamo importante discutere a livello territoriale, e abbiamo anche conseguito alcuni risultati importanti. Per quel che riguarda nello specifico di Torino, voi come sapete abbiamo nella provincia, sempre in questa provincia, 5 comuni che hanno vinto il Movimento 5 Stelle. Ovviamente Torino non è indifferente, non è come San Mauro, non è come Almese, non è come Venaria, non è come altri comuni che hanno vinto appunto 5 Stelle. Con il comune di Torino finalmente eravamo tutti un po' sorpresi, perché dopo tanti anni di centro-sinistra, col quale non riuscivamo a discutere né di tavolo anziani né di altro, no? Come specifico dei pensionati, come 5 Stelle ci hanno dato il tavolo anziani. Era la miseria, tutti contenti, tutti felici. Abbiamo fatto un paio di incontri su quella dimensione della casa, problema casa degli anziani, e un incontro sui trasporti. È finita lì. L'altro giorno siamo stati sotto il comune di Torino a fare manifestazione, perché come sapete dalle cronache dei giornali sul bilancio ne stanno facendo un po' di tutti i colori. Staremo a vedere se riusciremo a riprendere il rapporto con questi. In altre realtà invece, sempre di 5 Stelle, ad esempio Pinerolo, che è un'altra cittadina non indifferente, abbiamo fatto dei ragionamenti interessanti, col quale si può dialogare, si può ragionare. Allora, no, al di là della sigla del partito di cui fa parte, se si ha a che fare con delle persone che hanno delle sensibilità e vogliono dialogare con noi, ci riconoscono come parte sociale, io credo che possiamo fare delle belle cose interessanti. Il contributo che noi quindi diamo è quello sui servizi individuali, lo sappiamo tutti. Prestazioni sociosanitarie, sulla sanità non ne parliamo, anche qui bisogna aprire un capitolo enorme. Da questo punto di vista noi pensionati siamo particolarmente sensibili, perché sappiamo tutti che più l'età avanza più abbiamo bisogno dei servizi e più la sanità sta diventando privata. Allora occorre che anche da parte nostra ci sia un intervento e un presidio da questo punto di vista, perché altrimenti rischiamo che fanno tutti dalla regione che ha tra l'altro la regione, anche qui mi riferisco un po' al referendum, una battuta, sono 20 sanità in Italia, non una. Avremmo pensato che forse con l'articolo 5 potevamo fare qualcosa di diverso e far sì che magari una siringa costasse lo stesso tra Torino e Catania, invece non siamo riusciti a fare quello. E quindi la sanità sappiamo tutti che cosa vuol dire. Però per noi non è una cosa indifferente, è una cosa molto importante che dobbiamo presidiare. L'altra cosa che credo che sia importante è che noi non parliamo soltanto con le amministrazioni, tante volte ci dimentichiamo, facciamo gli accordi, ahimè qualche volta anche copia e incolla, e non va bene, bisogna in qualche modo non conseguire l'accordo, ma entrarci dentro, metterci le mani in piedi, fare in modo che tutte le varie istanze, le varie tematiche vengano sviscerate, verificate di anno in anno, cos'è cambiato e che cosa possiamo fare. Quindi da questo punto di vista ci va anche un po' di competenza, ma lo richiamerò un po' dopo. Quindi non solo l'amministrazione, ma anche i consorzi assistenziali. Che i consorzi sottoassistenziali non sono l'area che riguarda la sanità. La sanità c'è l'ASL e i distretti. Quello che invece sono i sociosanitari sono finanziati dai comuni. Ci sono ogni volta che andiamo in un comune, anche importante, ci dicono ah, tutta la parte sociale noi deleghiamo al consorzio, diamo 31 euro, 32, 33, 34, a seconda di quel che è, per ogni cittadino diamo il consorzio, ci pensano loro. Noi lì non ci mettiamo le mani, questo non va bene, perché non è possibile pensare soltanto di andare verso i comuni, discutere un po' di tariffe, di IMU, TASI, TARI, di qua e di là, e poi tutto quello che riguarda il socio assistenziale, che è la parte più interessante per noi, noi non riusciamo a metterci le mani. Quindi dobbiamo entrare anche in quel settore lì, che io credo sia importante. Sul tavolo anziani è fondamentale, monitorare che cosa succede con gli anziani. Sul discorso della casa, la qualità della vita di un anziano in una casa non è la stessa cosa di, una persona, diciamo, con un'età più giovane o comunque non ancora in condizioni di salute precaria. E quindi discutere anche con i comuni sulla qualità della vita di un anziano della casa. Noi abbiamo fatto degli accordi, ad esempio, con la TC di Torino, dove con loro facciamo delle collaborazioni e non vogliamo sostituirci al SICET. Il SICET faccia il SICET, noi non facciamo il SICET. Noi discutiamo, ad esempio, su quello che possono essere gli incidenti domestici. Capire, ad esempio, quali sono le problematiche di un anziano in casa. E possiamo anche proporgli di alzare il divano perché il divano è troppo basso, che è quello di abbassare i mobiletti, di mettere il maniglione nel bagno, tutta una serie di accorgimenti che però vanno fatte non così alla chetichella, vanno fatti anche con, non lo facciamo con la TC, che è una cosa interessante, e ridurre i consumi elettrici, fare in modo anche che un anziano possa ridurre quelle 100-200 euro all'anno, che saranno banalità, ma per un anziano che ha la minima, che lo sappiamo, questo è importante. Quindi però per fare questo, anche nei comuni, mi potrei dilungare ma non ho il tempo, ci vogliono sia capacità che competenze. Purtroppo su questo io richiamo l'importanza della confederalità. Allora, la confederazione sovente delega a noi fare questa contrattazione, è vero, ci rendiamo conto, non hanno mezzi, non hanno strumenti, non hanno, probabilmente hanno perso anche un pochino il modus vivendi di fare queste cose. Una volta, io mi ricordo, nelle varie zone c'erano le CISL, le confederazioni, con tutte le categorie massicciamente presenti. Quando si faceva la manifestazione c'erano tutte le categorie, o molte categorie, che venivano per solidarietà. Adesso ci sono solo più pensionati, hanno proprio abbandonato tutto quello che è il territorio. E da questo punto di vista io credo che la competenza e la capacità ci venga anche data in qualche modo da quello che è la qualità della confederazione, dalle categorie. Quante volte andiamo a discutere con le ASL e non abbiamo neanche un delegato della funzione pubblica? E non sappiamo che cosa ci, poi magari fai qualche accordo dove, mi ricordo, in un comune, il comune ci ha detto, senta, ci sono due persone che si occupano di ISE, se noi vi diamo l'appalto a voi, CGL e CISL e UIL, noi recuperiamo due persone per dedicarle ad altre cose nel comune. Beh, abbiamo detto, sì, va bene, non c'è nessun problema, abbiamo fatto la convenzione, e la funzione pubblica ci ha volato alle stelle, perché quelle due persone lì l'hanno spostata a fare altro. Allora, voglio dire, in quel caso lì che è una banalità, ma quante volte abbiamo bisogno, anche sulle altre cose più importanti di non quelle, della capacità e della collaborazione della funzione pubblica o di altre categorie, trasporti e quant'altro. Quindi da questo punto di vista il conoscere gli strumenti che vengono messi a disposizione della confederazione, che sono ovviamente l'osservatorio sulla contrattazione sociale, la banca dati AIDA. Su questo devo dire e ringraziare la federazione regionale, che ovviamente attraverso lo strumento di PAO, che non è uno strumento, tutt'altro, che ci ha aiutato a fare dei momenti informativi. Abbiamo fatti con due velocità, quelli che avevano da tempo fatto la contrattazione e quelli che invece erano un pochino all'inizio. Abbiamo ripreso piano piano tutto quello che è stata l'attività e il confronto che abbiamo in qualche modo sviluppato nei comuni precedentemente. Abbiamo creato anche lì un modo di vivere diversamente la contrattazione, più competenze e più conoscenze. Però da questo punto di vista non basta, noi non possiamo soltanto fare gli accordi col comune, dobbiamo andare sul territorio. L'abbiamo detto nel 2003, abbiamo rivoluzionato la nostra federazione, siamo passati, noi eravamo 15 leghe e siamo diventati 9 zone, abbiamo creato 9 coordinatori, adesso abbiamo ridotto le segreterie da 5 elementi a 3 elementi. Io credo che la cura dimagrante è la regola di dire andiamo verso il territorio e non lo stiamo facendo. Chiedo anche questo, non voglio esagerare, ma credo che un po' tutti noi dobbiamo proprio in modo accorato chiedere alla Confederazione anche loro di fare il loro sforzo, di andare verso quello che sono anche gli accorpamenti delle categorie, che vediamo tante volte che buttano via risorse inutili, che non servono a niente. La regionalizzazione non è una risposta a questo, tutt'altro che questo. L'altra cosa ultima che volevo dire, perché altrimenti poi... Il tempo quanto c'è ancora è finito. Allora, concludo dicendo semplicemente questo, che la cosa più importante che credo anche sul territorio, che noi dobbiamo in qualche modo riconquistarlo, è quello di non farlo da soli, non pensare di essere gli unici che hanno il monopolio del territorio. Ci sono delle risorse, ci sono delle associazioni, ci sono delle entità che operano sul sociale come noi, magari anche meglio di noi, che vanno riscoperte, e con quelle fare politiche del territorio, e abbiamo tutto da guadagnarci, perché non solo avviciniamo la gente alla nostra organizzazione, ma diamo anche un peso politico della nostra federazione, perché è quello che il sindacato sul territorio può fare delle cose importanti, ha un ruolo sociale fondamentale, e da questo punto di vista credo che ognuno di noi debba soltanto più mettersi a lavorare e soprattutto coordinarci tra di noi, ma credo che la federazione, la segreteria, con attraverso anche non solo Paolo, ma tutta la segreteria in qualche modo lo sta tentando. Io credo che coordinare, far sapere ognuno di noi cosa fa nell'altro territorio, sia anche un auspicio e un augurio per tutti quanti fare bene. Grazie.